Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo nel 2019 ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Dario Bonazzelli di I Wonder Pictures per parlare del film Quando eravamo fratelli, al cinema da giovedì 16 maggio 2019. Dario, ben trovato. Ben trovato te, ben trovati tutti. Lo raccontiamo brevemente? Sì, allora, con molto piacere. Innanzitutto devo dire che Jeremiah Zucker, il regista, è una nostra vecchia scoperta. Quando dico nostra non dico solo per I Wonder Pictures, ma anche per Biography Festival, che è il nostro festival sulle vite e i documentari, che si svolge a Bologna quest'anno dal 7 al 17 di giugno. Infatti Jeremiah Zucker venne nel 2009 a Biografilm e vinse con la sua opera prima, che fu un documentario, si chiamò Into a Dream, e vinse il concorso principale, per cui è un autore che abbiamo seguito nel tempo e che abbiamo riscoperto lo scorso anno con questo suo debutto nei film di finzione al Sundance, appunto, del 2018. È un film che With the Animals, il titolo originale. Bello, bello il titolo originale. Il titolo originale è molto bello, diciamo anche quello italiano ha un suo fascino, ovviamente la distribuzione si è presa, parlo in terza persona per non darmi troppe responsabilità, una licenza poetica di dargli un titolo, ecco, più accattivante per il nostro pubblico, anche più insomma è facilmente riconoscibile, che è Quando eravamo fratelli. Ecco, al Sundance fece molto parlare di sé, tant'è che il film vinse un premio, che era il Next Innovator Awards. Dopodiché ha cominciato un bel percorso festivaliero nelle sale, vincendo, venne addirittura candidato agli Spirit Awards, sempre in America, con 5 candidature. Da lì poi arrivò in Italia, ovviamente, a Biografilm Festival dello scorso anno, e da quel momento abbiamo deciso poi per la nostra società di distribuzione I Wonder Pictures di portarlo nelle sale. Quindi eccoci qua, che esce proprio domani in 23 sale in tutta Italia. Io è un film che suggerisco, non è un film per tutti, però è un film che suggerisco tanto perché è evidente la qualità ed è evidente la mano eccezionale di Zucker. Mano proprio, perché è lui che tiene in mano la telecamera nella maggior parte delle inquadrature, che spesso sono fatte a spalla, sono tanti primi piani, è un racconto molto intimo, ecco, di questa storia. E cos'è questa storia? È una storia di crescita, una storia di tre bambini, sono tre bambini portoricani che vivono nella periferia di New York, una periferia abbastanza selvaggia, una periferia che è raccontata in modo magistrale da Jeremiah, che vivono una situazione familiare non proprio semplice, con un padre molto poco presente, anche un po' irruento, una madre molto vicina e compassionevole, ma una famiglia abbastanza, diciamo, disagiata. Questi tre bambini crescono in una sinergia totale, in mezzo alla natura, e si sentono proprio liberi. Il film poi è girato ad altezza bambina, cioè nel senso il punto di vista proprio che viene preso è quello di Jonah, che è il bambino più piccolo e che affronta un percorso di crescita anche un po' differente dagli altri, si distacca da questa figura del padre molto irruento, appunto quasi violento, per scegliere un suo proprio percorso passionale che va in un'altra direzione, diciamo, rispetto al mascolino che il padre incarna. Infatti, insomma, il film è girato con delle tecniche abbastanza specifiche e particolari. Il film è girato in pellicola, quindi riesce a restituire un senso proprio materico, quel calore, dei colori molto caldi, sono delle tinte bellissime che gli permettono proprio di entrare dentro al film. Ci sono tanti primi piani, insomma, si vive proprio l'immedesimazione in modo molto totale. Questo è ovviamente facilitato dalla interpretazione eccezionale di questo bambino che interpreta appunto Conan, spacca lo schermo, proprio è incredibile. Non solo quindi riprese davvero, ma anche delle sequenze animate. Il film è intervallato da tantissimi disegni che sono quelli che Jonah stesso fa nel film, che sono un po' il suo rifugio dal mondo esterno, dal mondo della crescita, dalla famiglia. È un po' come spesso avviene quella forma di arte che permette uno sfogo, permette un nascondiglio. Ecco. Aggiungo, per quanto mi riguarda, quello che salta subito agli occhi è la grande libertà stilistica del regista, con un vitalismo confuso che sembra proprio quello dei ragazzini. Sì, decisamente. Il film, come dicevo prima, è girato nella estrema periferia newyorkese, molto spesso all'aperto, ma ci sono anche riprese casalinghe dove questi bambini, insomma, dominano completamente la scena, danno un senso di libertà incredibile e che porta anche molto a identificarci con gli stessi bambini, si compatisce insieme a loro. Questo è uno dei valori che io ritengo principali del film, che tiene e si convive le sorti appunto dell'evoluzione della storia insieme ai bambini, che ovviamente hanno un filtro di innocenza essendo bambini, ma che nella crescita poi subiscono e affrontano dei conflitti personali non da poco. Ecco, è un film che ho adorato personalmente, è un film che noi tutti dello staff l'abbiamo fatto e siamo contenti di fare questo sforzo e di portarlo al cinema, perché è un film non semplice. Ecco, noi abbiamo contro in questa settimana al Modovar, non vorrei troppo suggerirlo ai nostri ascoltatori, però ecco, noi siamo riusciti ad avere una presenza in una ventina di città italiane, ovviamente Moldovar, 400 copie in Italia, però noi ci troviamo sempre. Dove è uscito finora? All'estero l'uscita ovviamente principale che ha avuto è stata quella americana. Non conosco bene le release negli altri principali territori, ma in America ha anche ben figurato, raccogliendo su quasi mezzo milione di dollari nelle prime settimane di uscita. Ecco, è un film talmente prezioso che abbiamo voluto assolutamente portarlo in sala. Ricordiamo il film Quando eravamo fratelli, We the Animals, di Jeremiah Zagar, al cinema da giovedì 16 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento a Dario Bonazzelli di I Wonder Pictures, che lo distribuisce. Dario, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a te, grazie a tutti. Federico, aggiungo l'ultima cosa, perché se qualcuno dei nostri ascoltatori ha mai visto La Terra Selvaggia o gli piace Terra e Smalik, è un film che non può perdere. Grazie ancora a tutti. Con il regista Fahim Buyam per presentare il suo film Bangla al cinema da giovedì 16 maggio 2019. Fahim, ben trovato. Ciao, ciao a tutti. Lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta? Sì, certo. Il film racconta fondamentalmente di un ragazzo di 22 anni che si chiama Fahim, che vive nel quartiere di Sorpignattara, che è un quartiere multietnico, perché appunto è una melting pot dove ci stanno persone di diverse etnie. Vive con i suoi genitori e lavora in un museo e per arrotondare suona in una band canzoni tradizionali del suo paese, che è appunto il Bangladesh. Però un giorno la sua band decide di partecipare a un contest. In questo contest conosce Adia. Tra di loro c'è un'intesa fin da subito. Il problema suo però è dover conciliare questo suo grande amore per lei con una delle regole più inviolabili dell'Islam, che è appunto il sesso prematrimoniale. Come nasce l'idea di fare questo film? Fondamentalmente da un servizio che realizzai per Nemo, che è un programma che andava in onda su Rai 2, un racconto che abbiamo fatto con Francesco Medosi, e subito dopo la messa in onda, tra le varie case di produzione che mi hanno chiamato, c'è stata appunto la Fandango. Tramite Emanuele Scheringi siamo riusciti poi, insomma, con Team Vision a realizzare il film. Quella storia iniziale era autobiografica, come l'hai ideata per l'appunto? Ovviamente nel film la storia d'amore su cui ci siamo basati è tutta inventata, ma tutto il contorno che c'è dietro, quando parlo degli amici, del lavoro, appunto, della band, sono tutte cose vere, quindi diciamo buon 60%. Da quel primo lavoro com'è stato lo sviluppo, la creazione proprio del film? C'è stata una scrittura a quattro mani, sì. E è stato scritto insieme a Vanessa Piccelli, che oltretutto è stata anche una mia docente. E poi sì, da lì l'abbiamo girato e poi insomma abbiamo concluso il film, che poi ha girato in vari festival e poi adesso esce in sala. Oltre a questo nucleo della questione del sesso prematrimoniale, su cosa hai voluto centrare il film? Abbiamo deciso di raccontare questa storia semplicemente per far conoscere dei mondi che magari molti non conoscono, che è appunto quello delle seconde generazioni e che tipi di problemi vivono. E oltretutto, più che altro, non era mandare effettivamente veramente un messaggio, ma era più che altro porre delle domande rispetto alle tematiche che hai citato anche tu. Da seconde generazioni, com'è la dimensione che ti trovi a vivere nei luoghi in cui sei? Come spiego nel film, è un po' un 50-50, nel senso, vivendo tra due culture, noi delle seconde generazioni siamo, tra virgolette, una categoria a parte, nel senso che ovviamente conoscendole entrambi dobbiamo essere il ponte che insomma faccia interagire queste due, le due culture, appunto quella italiana e quella dell'origine dei genitori. Quindi insomma essere una seconda generazione ovviamente è per me personalmente è un valore aggiunto. Riesci in questo compito che dicevi di essere un po' da cerniera tra due comunità? Io lo spero, poi insomma dipenderà ovviamente sempre dalle persone che avranno voglia insomma di interagire o rimanere, tra virgolette, come dire, no, chiuse mentalmente. Noi la disponibilità cerchiamo di darla, oppure insomma col film speriamo che lasci qualcosa, ecco, insomma, che faccia riflettere. E qual è l'atteggiamento, per quello che hai vissuto, l'atteggiamento reciproco delle due comunità? Per ora sia in Italia, dove abbiamo presentato a Bari, che all'estero, comunque all'esito è stato molto positivo. La comunità, diciamo che da parte degli adulti non so come la prenderanno, però sicuramente i giovani supportano tantissimo, infatti un sacco di ragazzi tuttora mi mandano messaggi, sono contenti che in qualche maniera qualcuno li rappresenti. E il tuo percorso cinematografico prima di questo debutto nel lungometraggio di finzione qual è stato? Io in verità ho iniziato come youtuber. Ah, ok. Quindi sì, completamente diverso, cioè ho iniziato a 14 anni e fondamentalmente da lì poi, siccome effettivamente caricavo i video su YouTube e vedevo che non avevo, discutevo tantissimo successo, ho deciso di passare al lato professionale, quindi da lì ho iniziato a realizzare i miei piccoli video clip, documentari, piccoli cortometraggi, per poi insomma arrivare fino ad oggi. Che tipo di uscita sarà? In quante sale? Se non erro dovrebbero essere 80 sale.

al Wigil sabato 18 maggio 2019. Flavia, ben trovata. Ciao. Ci racconti un po' di quest'altro appuntamento? Questo appuntamento, diciamo, è più all'avanguardia, è proprio l'ultimo lavoro che abbiamo fatto, la tegola di caso. Praticamente sono incursioni nelle case delle persone che vengono poi coinvolte nell'azione scenica che si fa a casa loro. È una cosa molto divertente. Tra l'altro tornavate in TV dopo una lunga assenza. Mi sembra 15 anni, 14 più, tanti, io lo sai che non so il tempo, comunque tantissimo. Com'è nato questo nuovo appuntamento televisivo? Perché Stefano Coletta, che è il direttore di Rai 3, ha lavorato con noi nei Troppolitani nel 2000 e quindi conosceva bene il nostro lavoro proprio da di dentro, conosceva le meccaniche e l'aveva consigliato alla direttrice che c'era prima di Rai 3. Lei poi è andata via e è rimasto Stefano e ci ha fatto fare il lavoro, è andato in porto dopo 2 anni di trattative però. Senti, come l'avevate organizzata questa serie TV, diciamo così? Era un lavoro dove c'era un comportamento da rispettare e tutto quello che accadeva all'interno di questa dinamica era ripreso. Eravamo 3 macchine vive e una fissa, poi c'era un fonico e stavamo sempre tutti dentro la stanza o il posto dove accadeva l'evento. E infatti si vede pieno di gente, siamo più noi che gli intervistati, perché l'intervistato spesso è uno o due. Quante sono state le puntate? 10, da 12 minuti. 12 sì. Minuti. Che tipo di esperienza è stata, Flavia? Beh, una delle migliori, io così che ti uccidi, ti stanchi, perché sono esperienze estreme, nel senso che ti stanchi tantissimo, perché noi entravamo lì e facevamo 1 ora e mezzo di seguito, che sembra poco così, a un occhio non esperto, ma è difficilissimo dentro una stanza così chiusa. Poi facevamo anche dei pezzi a piedi e comunque non conoscevamo gli intervistati, quindi comunque c'era sempre questa attesa, sempre molto vivo. Come avveniva la scelta degli ospitanti? Noi avevamo chiesto a Chiara, a Ivan, di trovarci delle persone che erano disposti a ospitarci. Loro l'hanno trovati in base a quello che gli abbiamo detto noi, persone sole oppure in coppia oppure famiglie anche, e abbiamo fatto delle giornate solo a fare questi lavori, 2 o 3 giorni. In che arco di tempo nella città vi siete mossi? Aprile, maggio e giugno, è stato un lavoro infernale, pure marzo, abbiamo fatto qualche giorno a marzo, qualche giorno a aprile, anche perché era un lavoro nuovo, dovevamo anche affinare le armi, nel senso dovevamo capire bene il ritmo. Infatti le puntate iniziali risentono un po' di durezza, invece poi entriamo subito, tutti cominciano a smontare la casa degli ospitanti, insomma è una cosa un folle. Tra l'altro lì nelle case facevate anche dei brani dei vostri spettacoli. Sì, era praticamente portare nelle case il teatro, sì. La performance poi è diventata, e fare interagire le persone che stavano lì nei quadri di scena o negli oggetti che normalmente stanno nel teatro. C'è qualcosa che ti ha sorpreso in particolare? Beh, la super adattabilità di Antonio. Si è adattato proprio, è una cosa, è diventato piccolo, grande, largo, stretto, tutte le misure. Poi è stato un lavoro molto duro di montaggio, infatti l'abbiamo montato con Barbara Faonio. E insomma, è un bel lavoro di equip, è stato. Sì, sì. C'erano i cercatori di persone, abbiamo portato il nostro vecchio teatro, quello più attuale, cioè siamo riusciti a fare quasi tutto quello che volevamo. Flavia, come sarà la giornata di sabato? Beh, spero scoppiettante. Come organizzata? Lei, ah, questo come organizzata? Io purtroppo non sono organizzativa. Non lo so. Però so di sicuro che c'è un momento in cui tu e Antonio parlerete del vostro lavoro, poi ci sarà anche un momento musicale. Certo, sì, questo lo sapevo, diciamo DJ set di Federico Raboni e noi parliamo e proiettiamo prima. Anche estratti delle puntate, quindi? Sì, non lo so come ci possiamo organizzare, possiamo fare anche una cosa mista. E allora ricordiamo l'appuntamento con Incontri d'autore, la retrospettiva Rezza Mastrella al Wigil sabato 18 maggio 2019. Flavia, un abbraccio e un in bocca al lupo, ci si vede sabato. Ciao, grazie, scusate che sono un po' volatile. Ciao. Ciao. Con Pino Amendola, co-regista del film Anima, titolo tutto punteggiato, al cinema da giovedì 9 maggio 2019. Pino, ben trovato. Buondì. Lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta? Anima è un acronimo di atassia neuroipofisaria monolaterale acuta, una malattia immaginaria che mi sono inventato e di cui è affetto il protagonista, che è un politico, che è una persona si considera per bene, un uomo moderato, che però come molti politici ha dimenticato il valore etico del suo lavoro, comunque, insomma non è che si sia comportato in maniera criminale, però ecco, diciamo, non ha avuto quella grande empatia e cade in una sorta di coma e si risveglierà in un inferno laico che è l'aereo di Casablanca, il tipo di Casablanca, dove due steward, che poi sono i meravigliosi Occhetto e Bargiotta, e qui in chiave diciamo drammatica più che comica, lo costringeranno a rivedere non le sue cattive azioni, ma le conseguenze di azioni che lui ritiene banali e che hanno modificato la vita di altri, creando dolore e insomma varie cose. Lui scapperà da questo aereo e si ritroverà a casa della sua infanzia e assisterà al padre e alla madre che festeggiano il compleanno dei suoi 8 anni, perché lì è invece una sorta di paradiso laico dove sono le persone che si sono comportate con empatia verso il mondo e che rivivono per sempre i momenti felici della propria vita, si addormentano e non dimenticano. Insomma, poi succederanno tante altre cose, ma devo andare al cinema per vederle. Come ha avuto origine il progetto? Beh, il progetto è nato da un soggetto, da un'idea, per la verità, di Rosario Montesanti, un'idea di Rosario e Emilia Bianchi, la sua moglie, di anni fa, parecchi anni fa, credo una quindicina d'anni fa, una ventina d'anni fa, che mi proposero, diciamo, perché non facciamo questo film su un politico corrotto, quindi molto vecchio. Poi abbiamo fatto altre cose nel frattempo. Poi io e Rosario abbiamo cominciato a scrivere una sceneggiatura e 2 anni fa dovevamo fare un altro film, ma alla fine abbiamo ritirato fuori questa cosa e scoprendo che nonostante fossero passati 15 anni era estremamente attuale, estremamente moderna, perché non è un film sulla politica, è un film sulla responsabilità individuale, ma fatto in maniera leggera, non è un film drammatico nel senso classico della parola, è il tentativo di fare quelle commedie che si facevano in Italia negli anni 60 e 70, con dovuto rispetto per i grandissimi autori che le facevano, che avevano un valore anche diciamo etico, nel senso che si rideva, si sorrideva, c'era il grottesco, però alla fine uscivi dal cinema pensando, e questo era il tentativo, anche l'uso del bianco e nero che usiamo per raccontare diciamo l'inferno è un rimando a quello che è quel cinema che noi abbiamo molto amato. Com'è stato il lavoro in fase di costruzione a 4 mani? Noi siamo molto diversi, lo saremo anche santi, però abbiamo questa capacità di dialogare che credo che sia un esercizio di democrazia molto bello, quindi riusciamo, pur mantenendo le nostre idee spesso diverse, a trovare una soluzione che accontenti tutti e due. che è una cosa difficile, veramente difficile, però produce grande soddisfazione perché è veramente un esercizio che ti insegna a capire le ragioni dell'altro, perché io credo che nella vita, il problema della vita è che ognuno ha le sue buone ragioni, quindi noi ci arrompiamo spesso sulle nostre posizioni e invece bisogna essere aperti al pensiero dell'altro. E quindi non facciamo questo esercizio quotidianamente. La scelta del cast? Noi ci siamo un po' divisi i compiti, siccome lui viene da una straordinaria abilità tecnica, perché per 30 anni ha fatto il regista in Rai di tantissime cose, ha lavorato moltissimo, ha suo attivo veramente tantissime ore di filmati di vario genere. Mentre io ho più esperienza sulla recitazione, perché vengo dalla regia teatrale, per entrambi era il secondo film, però insomma, diciamo, io credo di avere una specificità nella direzione degli attori, quindi lui si occupava dell'inquadratura, della preparazione del set, io mi occupavo di preparare gli attori, e così abbiamo ottimizzato i tempi con pochissimi soldi, in fondo siamo riusciti a fare questo film, voglio dire che è pretenzioso perché ha 54 attori, molte scene, e quindi insomma in questo modo io seguivo la preparazione degli attori, che poi sono tutti amici, che sono venuti veramente perché innamorati dell'idea. Noi raccontando la sceneggiatura abbiamo trovato veramente tanti attori, da Andrea Roncato, Franco Pini, Giorgio Gobbi, Mino Caprio, Massimo Corvo, Maria Letizia Gorgia, tantissimi attori straordinari che sono venuti a concorrere alla realizzazione di questo film. Mm-hmm. E poi, cosa che ci terrei a dire, la premiata Forneria Marconi, che non ha mai concesso le sue musiche ad un film, per la prima volta ha dato Impressioni di Settembre, che è la sua canzone cult, rincidendo la posta per il film, semplicemente perché si è innamorato della sceneggiatura, hanno letto il film, il copione, hanno detto sì, si vediamo la musica. E quindi insomma, è una cosa molto bella. I pezzi originali invece sono stati composti da Alessandro Pizzo, che è uno straordinario musicista che è considerato allievo di Bacalo, che lavorava con. C'è uno spazio internet dove avere informazioni sul film e sulle sale a disposizione? Sì, c'è il sito, però ormai Facebook sostituisce i siti classici. Sì. C'è il sito Anima il Film su Facebook, dove puoi avere tutte le informazioni, vedere dei trailer del film, dei pezzetti del film, insomma sapere molto anche sulla preparazione del film. Bene, bene. E allora ricordiamo il film Anima, acronimo di Atassia Neuroipofisaria. Esatto. Al cinema da giovedì 9 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento al coregista Pino Amendola. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, ciao. Ciao a tutti. Con Dario D'Ambrosi, uno dei curatori del Festival del Cinema Patologico a Roma, al Teatro Patologico, dal 17 al 19 maggio 2019. Dario, ben trovato. Grazie a voi e ciao a tutti i radioascoltatori, ciao, benvenuti. Ci racconti di questo festival? Sì, devo dire che è il decimo anno e sono molto contento perché è un festival giovane, appena 10 anni di vita, ma già con alle spalle diciamo una presentazione di film assolutamente straordinari, e devo dire che quest'anno, forse perché era il decimo anno, forse perché abbiamo fatto un lavoro particolarmente bene negli anni passati, ma sono arrivati 4.000 film da visionare, ed è un peccato perché, come dicevo a molti giornalisti, abbiamo dovuto scegliere solamente 18 film da mettere in concorso e escludere tantissimi, ed è un peccato perché bisognerebbe avere la possibilità, un aiuto economico per poter avere un festival molto più ampio, molto più lungo, da presentare più film, soprattutto di paesi che sono in guerra, ed è così importante, caspita, che ci sono registi giovani che durante i momenti di guerra, i momenti drammatici, sono lì a mandare un'immagine insieme all'altra, riuscire a mettere insieme un film e farcelo arrivare in Italia per gridare un grido d'aiuto. Perciò secondo me è importante il nostro festival, perché ci sono pochi festival, come diciamo noi nel trailer, non è un festival di tappeti rossi, non è un festival di speche, ma un festival dove veramente mandiamo un grido di grande emozione e di grande comunicazione. Questa è la cosa fondamentale di questo festival. Da questi 4.000 titoli, i 18 scelti, quali sono stati i criteri? Diciamo, sì, il criterio alla base è sempre quello di scegliere film che non trattano solamente il problema della malattia mentale come soggetto che manda avanti drammaturgicamente il film, ma come dicevo prima, ma anche temi molto importanti come quello del bullismo, come quello della guerra, come quello dell'emarginazione. Non a caso sabato facciamo questo spettacolo Exodus, che viene recitato dai migranti che stanno in case famiglie, che vengono da vari luoghi di Roma, ma anche fuori Roma, uno spettacolo che abbiamo già presentato al Festival Premio Rita Sala, ma che vogliamo riproporlo al pubblico di cinema, perché è uno spettacolo veramente straordinario, abbinato a film che appunto raccontano problemi dell'emarginazione. Appunto, come vedete ragazzi, non è solamente un festival basato sulla problematica della malattia mentale, anche se l'apertura c'è una grande discussione, un grande confronto sull'autismo, ci saranno grandi scienziati e questi sono momenti importanti, perché mamme dei ragazzi, ma anche pubblico normale, chiede veramente chiarimenti su a che punto è la scienza sulla ricerca sull'autismo, ed è un piccolo festival con momenti assolutamente di altissimo livello. Io giro tantissimo festival, non voglio togliere merito ad altri festival, ma vedo che negli altri festival c'è tanta mondanità e poca emozione, e qui per fortuna abbiamo tanta emozione e poca mondanità, anche se il Teatro Patologico è un luogo dove la gente ci dice passano delle ore assolutamente molto belle, deliziose, sia per il luogo fisico, ma anche perché incontrano gente dove veramente riescono a scambiare delle vere e proprie idee senza pensare alla mondanità. Dario, una curiosità: tra i tanti titoli che vi sono arrivati, quali sono le tematiche più ricorrenti? Devo dire che la tematica più ricorrente è forse adesso, perché se ne è parlato tanto, il problema del bullismo, il problema veramente dell'emarginazione tra i giovani, e questo mi ha colpito molto, perché devo dire che nonostante i politici dicono e raccontano che i giovani sono dei bambocci, mammocci, non so più come cazzo li definiscono, ci sono tanti giovani registi che invece mettono sul tavolo la problematica come un problema serio da discutere, affrontarlo e cercare anche di risolverlo. E molti film che trattano il problema del potere, la voglia di conquistare altri popoli, veramente un po' come il vecchio nostro impero romano, cioè piano piano conquistare altri paesi, altre mentalità, altre culture e altre vite umane. Come saranno strutturate queste 3 giornate? Esatto, la prima giornata è dedicata all'autismo, e oltre alla discussione con il comitato scientifico di Tor Vergata, che appunto affronteranno insieme al pubblico le nuove ricerche sulla malattia dell'autismo, sul problema dell'autismo. Dopo si presenterà questo film Be Kind, che è stato già presentato al cinema, al Festival del Cinema di Roma, ma l'abbiamo voluto riproporre perché il direttore della fotografia è Lorenzo Messia, figlio di Antonio Messia, che ci ha lasciato neanche una settimana fa, e lui è stato uno dei grandi sostenitori del teatro patologico, tanto che è stato uno dei sponsor del primo viaggio dei ragazzi della compagnia teatrale del teatro patologico, che ha debuttato al Caffè La Mamma di New York. E perciò il primo giorno sul problema dell'autismo, il secondo affronteremo il problema dell'emarginazione, dell'immigrazione, con appunto questi immigranti che racconteranno la loro storia, mentre il terzo giorno è dedicato alla premiazione. Ci sarà come sempre Claudia Gerini, che consegnerà i premi ai vincitori, ma ci saranno premio è dato anche a tutti gli attori che in questi 10 anni hanno contribuito a far crescere questo piccolo festival, come, non so, Marco Bocci, Riccardo Scamaccio, Marco Giallini, cioè Alessandro Roglia, Francesco Montanari, cioè, ho detto qualche duno, ma non voglio dimenticare Anna Foglietta, Paola Cortellesi, cioè verranno proprio per testimoniare la bellezza di questo piccola, ma più che la bellezza, l'importanza di questo piccolo nostro festival che si svolgerà qui a Roma, al Teatro Patologico, a via Cassia 472. Allora ricordiamo la 10ª edizione del Festival del Teatro Patologico al Teatro Patologico a Roma dal 17 al 19 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore del Teatro Patologico Dario D'Ambrosi, che è uno dei curatori. Io ringrazio voi, siete veramente grandi, vi ascolto tantissimo e aspetto tutti i radioascoltatori per condividere insieme una grande emozione attraverso delle immagini di cinema. Grazie, no. Buona giornata. Con Giovanni Coda, regista del documentario Marx Diary, al Cinema Palma di Trevignano Romano da sabato 18 maggio 2019. Giovanni, ben trovato. Salve, grazie. Lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta? Sì, certo, sì. Marx Diary è praticamente un film che si ispira a un libro che si intitola Lo Capiti, scritto da Massimiliano Olivieri, che ha come centro praticamente come base la relazione che tra la sessualità e la disabilità. Questo è il focus su cui Olivieri pone l'attenzione, pone l'accento in questo libro, e da questo libro poi siamo riusciti a trasferirne una storia praticamente su questi due ragazzi che appunto si incontrano, sono due ragazzi disabili, e poi qualcosa succede insomma nella loro vita e le cose forse cambiano, ecco tutto qua. Come era partita l'idea di farne un film? Semplicemente leggendo il libro di Olivieri, io sono imbattuto sul libro di Olivieri, l'ho letto, gli ho dato una bella, come si dice, con molta attenzione, gli ho prestato molta attenzione. E mi è sembrato innanzitutto una storia particolare, nel senso che non si parla molto di, cioè, di sesso o disabilità, forse uno degli ultimi tabù che appunto resistono, soprattutto resilienti, che è il contrario tra parentesi. Quindi insomma, l'idea era quella di portare appunto una storia diversa tra virgolette, e poi in realtà i due protagonisti sono anche due omosessuali, tra parentesi, quindi insomma diversa e diversi. Tanto però, come si dice, un'impronta tecnica comunque dal punto di vista proprio narrativo e anche visivo, particolare, molto differente, comunque, cioè non è una fiction, non è neanche un documentario alla fine, è una ibridazione tra le due tecniche, tra due sistemi narrativi, a cui poi si unisce comunque tutta un lavoro legato all'arte visuale, ecco. Sì. Quindi volevamo fare, si dice, c'era anche questo, virgolette, un esperimento, in realtà è molto più di un esperimento, ecco. Sì. Del libro cosa avevi apprezzato? La storia in sé, proprio Olivieri nel libro, nella prima parte del libro, parla anche in prima persona, cioè parla anche delle sue esperienze personali. E il discorso sulla privazione dell'intimità, quando la tua intimità è completamente invasa da persone che ti vogliono bene, chiaramente, intendiamo, sono i genitori, sono gli assistenti, sono i medici, è però in una prospettiva perenne, praticamente. Questo era una delle parti del libro di Maximiliano Olivieri che più mi ha colpito, cioè la prima cosa appunto che lui mette in chiaro è proprio: non ho un'intimità e nessuno me la vuole dare, tra parentesi, però tutti partecipano alla mia vita, però io non posso poi essere protagonista di quella parte specifica della mia vita. Dal libro al film, com'è stato il passaggio, su cosa hai voluto centrare l'attenzione? L'attenzione è centrata su una storia d'amore alla fine, tutto qua, abbiamo bypassato tutto quello che potrebbe apparire didascalico e quindi non seguiamo una traccia di libro, perché al libro ci siamo ispirati, dopodiché invece la sceneggiatura è composta da tante annotazioni, da tante lettere. Per esempio ci sono delle lettere che sono arrivate agli ieri tramite il portale Givers di ragazzi disabili che raccontano la loro storia, quindi abbiamo creato una sorta di sceneggiatura montata su tutta una serie di appunto di situazioni. Ci sono, che ne so, le lettere di Frida Kahlo a Diego Rivera, e poi ci sono invece le storie dei ragazzi che appunto parlano della loro sessualità e esprimono praticamente il disagio, perché qui è un disagio, nel non poterla appunto mettere in pratica la propria sessualità. Questo deve essere nei privati, fondamentalmente. Che tipo di uscita state organizzando? Il film è già stato presentato a Cagliari, ha già riscosso dei riconoscimenti al New Renaissance Film Festival di Amsterdam, dove si è aggiudicato il Best Art Film e io ho preso il Best Director in LGBT Feature Film. Poi è stato premiato allo Movies come miglior film, a Rainbow Film Festival come miglior film indipendente italiano. Adesso ha fatto comunque già una settimana di programmazione a Cagliari, in una sala al cinema. Adesso invece viene proiettato al Cinema Palma di Trevignano Romano, fa una settimana classica di programmazione e poi stiamo valutando il resto appunto della distribuzione di un film come Max Dyer, che chiaramente non è un film semplice, tra virgolette, poi è un film indipendente, completamente indipendente, prodotto da un'associazione culturale, una casa cinematografica che è anche un'associazione culturale, e dall'Università di Derby in Inghilterra. Questi due sono i produttori ufficiali del progetto, e poi della Gest Production, che fece intervenuto in seconda battuta. A questo proposito, ci lasci dei riferimenti web per saperne di più, soprattutto rispetto alla distribuzione? In questo momento la pagina di riferimento può essere solo quella di Max Dyer, che sta su Facebook praticamente, cioè digitando Max Dyer, un film di Giovanni Cora, si entra nella pagina e lì poi ci sono tutti i riferimenti anche di questa programmazione di Trevignano Romano. E allora ricordiamo l'uscita del film Max Dyer al Cinema Palma di Trevignano Romano da sabato 18 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Giovanni Coda. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi tantissimo. Con Sabina Pazzi, curatrice di una serie di appuntamenti cinematografici dal titolo Regia alle donne, a Roma, la Casa Internazionale delle Donne, dal 6 marzo al 21 maggio 2019. Sabina, ben trovata. Ciao, ben trovato a tutti gli ascoltatori e grazie di avermi invitato alla tua trasmissione. Ci racconti? Allora, intanto non sono sola. Siamo un gruppo, un'associazione della Casa Internazionale delle Donne, e con me c'è Loredana Monaco, Gioia Marchetti, Raffaella Milazzo e poi tutto il gruppo, tutte le donne della Casa Internazionale che ci sostengono e ci aiutano e sono tutte dentro questo progetto. L'idea è quella di parlare di cinema, ma in realtà di parlare anche di altro, cioè delle donne che sono queste, diciamo, invisibili in tutti i campi, e quindi è nata, diciamo, questa idea da una relazione fatta dalla DEA, che ha fatto anche un incontro molto interessante a metà gennaio su Gap e Chuck, e quindi sull'uguaglianza di genere nell'industria dell'audiovisivo,